Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, sono le 11:10. Filippa Oreggi regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Veloce il nostro sommario. Il linguaggio e il significato dei colori. Alla scoperta dei centri PsoCare. Le regole per una frittura perfetta. Bene, oggi vi propongo una puntata colorata. Parleremo del linguaggio e del significato dei colori. Faremo un percorso che ci aiuterà a farci guardare la realtà che ci circonda sotto una nuova luce. Al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere qualcosa in più di noi. Perché i colori, lo sappiamo, regalano emozioni e interpretano, anche quando non ne siamo consapevoli, molti nostri stati d'animo. Ogni colore porta con sé una duplice valenza, estetica e simbolica, e proprio queste due dimensioni sono ben rappresentate dai due ospiti che ci accompagneranno oggi. Abbiamo in linea il dottor Widmann, analista junghiano, autore del simbolismo dei colori. Dottore, bentornato. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. A lei. In studio con me, devo dire, il mio mito, è Cinzia Felicetti. Cinzia, ciao, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti voi. Giornalista, direttore di El.it e autrice di Più bella con i tuoi colori, un libro che io devo dire dovrebbero leggere tutte le donne, perché Cinzia parte da un'idea, secondo me, che capovolge un po' il pensiero comune di noi donne, e che ci sono delle star che assomigliano a noi e non il contrario, e questo diventa per me, per questo dicevo, un mito, perché tu fai sentire e scoprire ogni donna più bella e facendole proprio coltivare quella parte di sé che è unica, è inconfondibile, non duplicabile, e quindi mi piace molto questo, una donna attenta alle donne. Benvenuta. Grazie davvero. Allora, dottor Widmann, torniamo ai nostri colori. La realtà è colorata, sembra una banalità, ma devo dire che per giungere a questa banale affermazione è stato necessario compiere un lungo cammino evolutivo e anche un percorso scientifico, direi, abbastanza complesso. Sì, il punto è che per vedere i colori, nella fattispecie, noi abbiamo bisogno di due cose. Uno è l'occhio e l'altro è il cervello. Sì. Un po' contrariamente anche a quello che si può pensare, è che i colori vengono elaborati nel cervello. E il cervello dell'uomo non è stato sempre lo stesso. Allora sorgono tante questioni. Se in un passato molto remoto, molto antico, i colori fossero percepiti esattamente così come li percepiamo noi. E devo dire che abbiamo delle perplessità su questo. Molto probabilmente la confusione in tempi molto molto molto molto arcaici, la confusione era abbastanza regnava sovrana. Ampia. Sì, ne abbiamo qualche testimonianza quando leggiamo opere abbastanza antiche come quelle di Omero, per esempio, dove la distinzione dei colori non è mica così nitida come a noi pare. Per esempio viene usato lo stesso tema per indicare il blu scuro, ma anche il verde scuro, ma anche il grigio scuro, eccetera, eccetera. Questa è una questione abbastanza diffusa, tra l'altro, nelle lingue antiche. Sembra che i colori scuri siano tutti uguali, che i colori chiari siano tutti uguali fra di loro. Dopo, naturalmente, col passare del tempo, questa percezione si specializza, si differenzia. C'è una bella ricerca, risale ancora agli anni 60, in cui per esempio si vede che fin dall'inizio pare che l'uomo abbia percepito e distinto fra chiaro e scuro, ma quando riesce a scorporare un terzo fra il chiaro e lo scuro, noi potremmo dire nei nostri termini fra il bianco e il nero, ecco, quel terzo è sempre il rosso. Quando le lingue parlano di tre colori, uno riguarda sempre la gamma chiara, uno la gamma scura e il terzo è sempre il rosso. E via di questo passo, attraverso specializzazioni sempre più progressive, per cui il rosso si distingue poi dall'arancio, si distingue dal viola, si distingue dal giallo e il giallo si distingue dal verde, eccetera, eccetera, via di questo passo si arrivano alle grandi teorie che chiamerei quasi contemporanee, perché formulata da Newton in avanti, l'altra da Goethe. Sì. E lì vengono, come dire, distinti distinti, vengono catalogati e fissati sette classici colori, sette colori del prima. E noi giocheremo proprio su questa tavolozza di colori insieme ai nostri ascoltatori, che invito a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 per raccontarci ad esempio di che colore sono circondati. Pensiamo ad esempio alla nostra casa, pensiamo all'ufficio, ma anche che colore indossano, perché oggi avremo l'opportunità di capire il linguaggio del colore, il significato, capire ad esempio perché alcuni colori li amiamo, altri invece cerchiamo quasi di li rifiutiamo, non li indosseremo mai, ci danno a volte anche quasi fastidio, ma impareremo, grazie all'aiuto di Cinzia Felicetti, ad indossare il colore giusto. E come facciamo, Cinzia? Che cosa hai bisogno di sapere dalle nostre ascoltatrici, anche dai nostri ascoltatori, magari per aggiungere un tocco di colore al loro abbigliamento, per aiutarci a vestire il colore adatto a noi? Ma la cosa più importante è imparare a guardarsi, che già è una bellissima conquista, perché spesso le persone mi chiedono che colore va questa primavera, per esempio. E questo è importante, sapere che colore va. Per esempio, quest'inverno abbiamo riscoperto tutti l'ottanio, che è un nome molto misterioso ed è un incrocio veramente affascinante di verde e di blu. Tra l'altro è un colore abbastanza trasversale che sta bene a tutte le tipologie cromatiche che tra pochissimo studieremo. Ma la cosa più importante è davvero analizzare il colore della propria pelle, le sfumature della propria pelle, e vedere che cosa ci sta meglio, che cosa ci illumina, ci fa sparire magicamente rughe e imperfezioni. Ci sono persone che purtroppo non prestano attenzione a questo, ed è molto importante oggi invece indossare colori che ci valorizzino, perché una prima impressione, buona o pessima, si fa solo in 7 secondi, e quindi è importante che in quei 7 secondi ognuno di noi sia la star di se stesso. Tu nel tuo libro parli di 4 tipologie di star, e c'è una di queste star che assomiglia a noi, giro proprio, no? Vogliamo ricordarle in modo che le nostre ascoltatrici si sintonizzano e sono pronte in pratica a raccontarci a quale star si sentono più vicine, soprattutto quella che tu chiami la tripletta, quindi il colore dei capelli, della pelle e degli occhi. Rapidamente le star. Sì, innanzitutto invito tutte a correre al mio sito, al sito che ho creato apposta per il libro, che è www.ituoicolori.it, così possiamo anche visualizzarle in diretta. La tipologia più diffusa in Italia è quella Audrey Hepburn, quindi cromaticamente ci sono un sacco di persone, questa è l'ottima notizia, che assomigliano a Audrey, cioè hanno una pelle dall'avorio all'olivastro, capelli scuri e occhi spesso scuri o comunque molto intensi, tipo 2 pezzetti di cioccolato fondente. Ecco, queste sono persone, sono donne che dovrebbero tenersi alla larga dal marrone, per esempio, che tira fuori il peggio dall'incarnato olivastro, cioè questo sottotono un po' giallastro. Poi ci sono le cugine della tipologia Audrey, che sono le signore Grace Kelly, probabilmente sono bionde, hanno sempre un tono di pelle un po' perlato, e si riconosce questo dalle vene all'interno dei polsi, che dovrebbero essere le vene di colore blu e quindi sottotono della pelle e freddo. Quindi i colori qui che stanno meglio sono i celesti, lavanda, eccetera. Poi abbiamo la tipologia Katharine Hepburn, spesso sono castane però con riflessi ramati nei capelli o dorati, occhi un po' più caleidoscopici, quindi sì, verde castano, oppure con riflessi ambra. Qui invece siamo nel regno delle sfumature autunnali nel guardaroba, quindi tripudio di marroni, arancio, giallo zafferano e quant'altro. E infine la tipologia Marilyn Monroe, magari, che si reincarna nelle persone che hanno sì una pelle color pesca, magari qualche lentiggine, capelli biondo ramati, e stanno benissimo con tutte le sfumature della primavera. Vedo Filippo Oreggi che è molto attento, perché questa tipologia di star gli piacciono tutte, quindi lui non saprebbe chi scegliere. Intanto poi, però, voi fate una scelta, chiamateci 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Colore. Una mela al giorno. E intanto che attendiamo le vostre telefonate colorate, io voglio aprire una parentesi sui centri PsoCare. Ne abbiamo parlato tante volte, oggi diamo proprio delle istruzioni per l'uso. Cosa sono? Sono dei presidi pubblici istituiti all'interno di un programma di ricerca sulla psoriasi, che è promosso dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con le società scientifiche dermatologiche e coordinato anche per la parte tecnica dal Centro Studi di Gizet. tutte, quindi vi ho dato un po' la carta d'identità, le ho citate tutte. Ma chi deve recarsi in questi centri PsoCare? Quando e cosa e come funzionano? In linea con noi per saperne di più abbiamo il professor Andrea Peserico, che è direttore della clinica dermatologica dell'Università di Padova. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei. Professore, noi oggi parliamo di colori. Lei ha il camice, quindi bianco. Però la psoriasi ha anche nelle fasi iniziali dei colori sulla pelle. Certamente, ha due colori sostanzialmente, il rosso della cute infiammata e il bianco delle squame che si formano sopra, e il bianco delle squame che si formano sopra queste chiazze rossastre, che a volte chiazze eritemato rosse squamose con squame biancastre. Ecco, abbiamo precisato proprio questo, l'aspetto della psoriasi, perché di fronte ad una pelle che si desquama e si arrossa si possono pensare a tante cose, ma i dermatologi ormai invitano a dire: facciamo una diagnosi. E la diagnosi si può fare nei centri PsoCare. Dottor professore, come funzionano? Allora, i centri PsoCare sono dei centri, circa più di 150 in Italia, istituiti ovviamente dal Ministero, dove uno si può recare per essere curato per la psoriasi. Lei mi domandava come si fa ad arrivarci, perché poi il problema è sempre questo. È abbastanza semplice. Per trovare il numero di telefono o l'email basta andare su Google, su Internet e digitare PsoCare. PsoCare, PsoCare. PsoCare. Ecco, io adesso in questo momento sono davanti al computer, l'ho aperto e ho proprio la schermata PsoCare che viene fuori. E dice, è spiegato cosa fa PsoCare, ma volendo andare basta guardare i centri e c'è l'elenco dei centri. Sono più di 155. Sì, appunto, ci sono praticamente in tutte le regioni. Quindi, si va dal medico di base? E ci si fa fare un'impegnativa per visita dermatologica. Non costa nulla? Non costa nulla, sì, in qualche caso ci può essere il ticket, adesso dipende poi certo, da regione a regione, però insomma sostanzialmente costa nulla o poco. Ecco, poco. E abbiamo dei dermatologi che sono in grado di capire che cosa si nasconde dietro quella chiazzetta. Nel caso possono anche dirci: questa non è psoriasi, vero professore? Esattamente. E mandarci sono a casa. Sono tutti dermatologi e in particolare sono tutti dermatologi particolarmente esperti in campo di psoriasi, quindi sono in grado di fare una diagnosi di certezza. Perfetto. E capire anche che livello di psoriasi uno ha, che grado, che gravità di psoriasi uno ha. E nel caso quindi prescrivere le terapie adeguate. E nel caso prescrivere le terapie, tenendo anche presente che alcune terapie, le cosiddette terapie con i farmaci biologici che si usano nei casi più gravi di psoriasi, possono essere prescritte solo dai centri PsoCare. Quindi il consiglio è, se hai la psoriasi o se sospetti di avere la psoriasi, rivolgiti ai centri PsoCare, che sono proprio dedicati. Ricordatevi il nome, PsoCare. PsoCare, esattamente. Ecco, per trovarlo, Google, come dicevo, o qualsiasi sistema, si va su Internet e il nostro medico viene fuori una cartina dell'Italia con tutte le regioni. Magnifico. Clicca sulla regione e trova tutti i centri riconosciuti. Per chi non potesse utilizzare internet, 800... telefonare all'ospedale regionale, di solito sono tutti ospedali regionali di riferimento. E lì trovate tutto. Dove c'è un reparto o una clinica dermatologica. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e speriamo di sentirci presto. Arrivederci. Pronto soccorso. Strega comanda color. Noi oggi facciamo questo gioco, ve lo ricordate? Lo facevamo quando eravamo piccoli. Rinominiamo tutti i colori di cui vogliamo capire il linguaggio e il significato, perché i colori parlano di noi. Cinzia Felicetti ci diceva la prima impressione si cattura veramente in pochissimo tempo e sicuramente il colore aiuta, perché ci sono anche dei significati che mandano, dei segnali che mandano i nostri colori. Cinzia, io vorrei farti fare questo esercizio: associare ad ogni emozione primaria un colore, così poi invece al dottor Widmann chiediamo anche come, che cosa sta indossando, gli facciamo dire la tripletta. Allora iniziamo dalla gioia, Cinzia. Per me la gioia è il blu, ma perché ho un senso della gioia che è molto equilibrato, molto forse sereno, un po' orientale. La sorpresa? La sorpresa è il viola. E la paura? La paura è il nero. La tristezza? La tristezza è il grigio. Anch'io avrei detto così. La rabbia? La rabbia è il rosso. E il disgusto? È il giallo per me. Dottor Widmann. Sto prendendo diligentemente appunti. Ecco, che cosa viene fuori da questa? Abbiamo fatto una specie di test a Cinzia. Sì, è un test abbastanza rispondente, che soprattutto precisa le caratteristiche di queste emozioni. Ad esempio, quando Cinzia Felicetti dice la gioia per me è blu perché io la intendo all'orientale, la intendo come serenità, questo ci dice la qualità di ciò che lei intende gioia, che non è una gioia per esempio di tipo esplosivo, sì, non è una gioia di tipo effervescente, ma è per l'appunto serenità. Il blu credo che sia il colore che si presta molto bene a tradurre questi aspetti. Altrettanto quando dice la tristezza per me è grigia, ho l'impressione, dato che ho l'opportunità di parlare direttamente con Cinzia Felicetti, posso verificare, ma ipotizzo che il grigio e che la tristezza che si veicola nel grigio sia una sorta di piattezza, non sia la disperazione, ma sia qualcosa di piatto, di uniforme, di monotono, di stantio, di grigio, mi verrebbe sì, da dire riassuntivamente. Basta la parola in questo caso. Basta per l'appunto la parola. Così come basta la parola quando dice che la rabbia è rossa. Rosso è proprio questa grande esplosione, questa manifestazione energetica, questa sfuriata. Rosso è il colore del toro, rosso è il colore delle bandiere rosse, rosso è il colore della rivoluzione, di quella dei tanti uomini e di quella del singolo uomo, di quando noi ci ribelliamo a qualcosa. E così come mi pare sia molto interessante questa associazione fra la paura e il nero, sì, perché il nero non è intrinsecamente il colore della paura, può anche essere il colore della magia, ma sicuramente il nero è colore di potenze grandi, oscure, impenetrabili, inquietanti. Infatti si dice l'uomo nero. Si dice per l'appunto l'uomo nero, che è una delle rappresentazioni della paura più diffuse. E il nero è proprio il colore di tutte le forze su cui noi non avremo mai potere, e in questo senso queste forze destano anche paura. E abbiamo il disgusto giallo. Ah sì, il disgusto giallo. Se io immagino il giallo di cui parla Cinzia Felicetti in relazione al disgusto, lo penso non tanto come un giallo acido, un giallo limone, ma come un giallo agro, quel giallo bile, quel giallo fiele, se mi è consentito dire, quel giallo vomito, quel giallo disgusto, quel giallo, certo, dei succhi biliari. Non il giallo sole, il giallo solare. No, perfettamente. Dottor Widmann, lei... Io non posso, mi hanno detto che non posso sperticarmi in complimenti, ma io devo dire che quello che sento mi esce fuori. Secondo lei è troppo bravo, come Cinzia Felicetti. Abbiamo Maria Luisa alla provincia di Lecco. Maria Luisa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ma... Devo fare un po' la voce un po' più asciuttina. Mi hanno detto così, ma perché sennò sono troppo sorridente. Sto scherzando. Maria Luisa. Sono rimasta un attimo così scioccata, siccome io amo moltissimo il giallo, a quel punto lì ho avuto un attimo di sbandamento. Ha detto, ma come, il mio colore preferito, Cinzia Felicetti me lo mette nel disgusto, ma ci sono gialli e gialli. Prego? Ci sono gialli e gialli. Esatto, ci sono gialli e gialli, ma io dicevo che sino a un certo periodo della mia vita ho amato moltissimo il rosso, e il giallo non è che non mi piacesse, ma era un colore che non... non indossavo, ecco, anzi ricordo un vestito arancione che mia mamma mi aveva fatto mettere per forza e che io detestavo tantissimo, ecco. E poi improvvisamente, non so per quale motivo, non è che il rosso non mi piaccia più, però sono passata al giallo sole, il giallo luminoso, ma il giallo dà una sensazione di calore, e il calore della cosa che indosso gialla è come se mi entrasse all'interno, ecco. Un calore che entra dentro. Eccoci finalmente insieme, torniamo a parlare di colori con il dottor Claudio Widmann, autore del Simbolismo dei colori, e con Cinzia Felicetti, giornalista, scrittrice, direttore di El.it e autrice di Più bella con i tuoi colori. Maria Luisa prima ci ha chiamato e ci raccontava, dottor Widmann, ne vorrei una sua lettura, che dal rosso è passata al giallo come colore preferito. Infatti, attraverso un'insofferenza per l'arancio abbiamo... Attraverso un'insofferenza per un abito che la mamma le imponeva. Si cambia colore, per fortuna, nel corso della vita. Colori che amavamo finiscono un po' in fondo all'armadio, oppure magari non li ritroviamo più anche nei colori della nostra casa, perché altri ne prendono il posto. Ma questo è normale, ma che cosa vuol dire, dottore? Se è vero, come diceva anche Cinzia Felicetti prima, che i colori in qualche modo ci veicolano, ci trasmettono, ci esprimono, allora si cambia colori perché si cambia noi stessi, noi diventiamo diversi. E uno dei grandi misteri della persona fondamentalmente è che siamo sempre diversi pur essendo sempre noi stessi. Allora a me colpisce questa nostra ascoltatrice che cambia profondamente, anche emotivamente, in maniera sentita, colori, ma rimane in qualche modo nell'area dei rossi, gialli, non migra verso il verde o verso il blu o verso il nero o altrove, rimane comunque in questa area, dunque rimane se stessa, modificando in maniera abbastanza sensibile. Certo, il rosso rispetto al giallo ha un carattere più attivo, ha un carattere più acceso, ha un carattere più vivace. Il giallo, l'ha detto anche l'ascoltatrice medesima, è un colore così solare che scalda dentro. Potremmo anche dire che il rosso è proprio azione, mentre il giallo è questo aspetto di calore. Mi pare che in questa persona ci sia stato uno spostamento, come dire, di baricentro. Le emozioni fondamentali sono passate da uno stato eccitativo ad uno stato di calore. Il rosso è per eccellenza il colore dell'eccitazione. Che è un colore però abbastanza difficile da indossare, o sbaglio, Cinzia? Poi ti devo leggere tantissimi sms, ma abbiamo Silvana da Pordenone, Rina dalla provincia di Vicenza, tutti che vogliono capire come scegliere il colore, sì, e perché amano quello. Maria Luisa, rosso è passata al giallo, a chi stanno bene questi colori? Allora, in generale il rosso può stare bene a tutte le tipologie, dipende dalla percentuale di giallo che contiene. Mi spiego: se abbiamo un sottotono di pelle caldo, quindi una pelle dorata, e questo si riconosce facilmente dalle vene all'interno del polso che sono verdi normalmente, avremo bisogno di un rosso caldo, un vermiglio. Se invece le vene all'interno dei polsi sono blu, e questo denota un sottotono di pelle freddo, avremo bisogno di un rosso carminio, di un borgogna, di un bordeaux, quindi di un rosso freddo sostanzialmente. Però ricordiamo che i colori vanno scelti anche in base alla personalità. Maria Luisa diceva: come mai mi cade un mito il mio giallo? Beh, Maria Luisa, ognuno di noi ha un colore mantra, cioè un colore che energeticamente ci carica. Per me è il viola, per esempio. Io non amo il giallo perché il giallo mi sta malissimo, cioè sembro malata col giallo, mi riempie, come si dice, cioè veramente mi regala 5 anni indesiderati in più in 3 secondi, perché sono tipologia Audrey, e quindi per noi Audrey il giallo ha un effetto boomerang micidiale. E poi è importante anche, appunto, dicevo, scegliere il colore in base alla personalità. Il rosso in America viene chiamato Power Red, quindi è un colore di potere. Non è un caso che Nancy Pelosi o Hillary Clinton, quando fanno i loro discorsi, hanno sempre un tailleur rosso, perché per lo speaker è importante essere visibile. Però se una persona come me, in questo caso, ha una personalità più sussurrata, non ha voglia di imporre anche cromaticamente la sua presenza, il rosso può risultare forse un po' troppo urlato e quindi persone come me preferiscono il blu, per esempio, tonalità un po' più sottotono, un po' più sussurrate, appunto. Andiamo a Pordenone, ci aspetta Silvana. Buongiorno Silvana. Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Posso fare 2 secondi di complimenti perché sono veramente molto molto contenta di aver scoperto Radio 24. Grazie Silvana. Prego. Raccolto 2 secondi di cosa mi è successo. Mi sono avvicinata ai colori, non so per quale motivo, forse avevo bisogno. Praticamente ho dipinto il mio soffitto della mia camera di azzurro e poi ci ho fatto delle nuvolette bianche. E in una ci ho schiacciato l'occhiolino, quando mi alzo al mattino vedo questo. Vabbè, mi sembrava una cosa naturale. È successo che poi sono dovuta andare via per vari motivi. Quando mi svegliavo al mattino, che trovavo un soffitto bianco, proprio sentivo la mancanza di questo azzurro, di questa, boh, non lo so, di questa sensazione di pace che mi dava quando mi svegliavo nella camera che avevo dipinto di azzurro. Ecco, volevo portare questa testimonianza. Provate l'azzurro, dice Silvana. Dottor Widmann, è importante anche il colore. Noi abbiamo chiesto agli ascoltatori qual è il colore che vi circonda. Possiamo provare a chiudere gli occhi a vedere quello, e a pensare a quello di casa nostra, magari nello spazio in cui stiamo di più abitualmente, dell'ufficio. Noi ad esempio siamo circondati dal blu in questo studio della diretta e la nostra amica ci racconta quanto le faccia bene, piacere aprire gli occhi e guardare un soffitto azzurro come il cielo, con anche delle nuvolette che strizzano gli occhi. E quindi anche nell'ambiente in cui viviamo il colore può darci una mano. La radioascoltatrice ci sta dicendo e portando una testimonianza molto chiara di questa cosa: i colori fanno atmosfera. Vorrei condividere con l'ascoltatrice Silvana il fatto che quando lei si alza e vede questo colore azzurrino del cielo con le nuvole bianche, in molte occasioni anch'io mi alzo e vedo un cielo che già qualche secolo fa è stato dipinto con quelli che nel Settecento chiamavano i colori d'aria, che sono per l'appunto questi azzurrini che tendono al bianco, al celestrino, e che hanno due effetti: uno quello di dilatare lo spazio, e l'altro quello di introdurre un'atmosfera serena su questo accostamento tra l'azzurro e certe tonalità, in particolare tra l'azzurro e il sereno, avevamo già insistito. Quindi a me pare che questo cielo che la radioascoltatrice ha dipinto sopra la propria testa sia proprio un modo per aprire gli occhi e trovarsi immediatamente dentro di una certa atmosfera che è contemporaneamente luminosa, contemporaneamente dilatata e serena. Lucia ci chiama da Roma. Buongiorno Lucia. Buongiorno, ringrazio per essere stata richiamata. Volevo, così, prima di introdurre la domanda già precisa che avevo posto, sì, capire come mai io odio da sempre il viola e da sempre amo il verde. Questo come... Allora, la prima domanda che io la segno, e la seconda, Lucia? La seconda era che sono ovviamente appartenuta a una certa tipologia, mi sembra di ricordare la terza. Ma cioè, lei è qual è la star che le assomiglia? Mi sembra, come posso dire, ero una castana con gli occhi verdi, ma non quel verde meraviglioso, un verde, diciamo, una foglia. Una Catherine Hepburn, eh? Sì, esatto. Perfetto. E sono però diventata grigia, quindi ho un bel capello grigio, e quindi i miei colori, parlo di abbigliamento, di accostamento, sono variati. Certo. E capire se... Cosa si mette col capello grigio? Tra l'altro in America il capello grigio, care amiche, va di modissima. Eccoci, allora, dottor Widmann, rapidamente diamo delle risposte flash molto incisive in modo che possiamo dare voce a tutte le nostre ascoltatrici. Detesto il viola, mi piace il verde. L'odio per il viola credo recepisca anche molti aspetti culturali. Il viola è un colore che ha torto, e per ragioni che, se vogliamo essere sintetici, non possiamo esplorare, ma il viola è stato lungamente condannato nella nostra cultura. Il fascino per il verde della signora probabilmente porta anche ad una in direzione di un gusto della precisione, del rigore, della correttezza, della delimitazione, della stabilità, dell'incisività. Quindi credo che rispetto a questo viola che è magico e sfuggente, evanescente, la signora preferisca un versante più circoscritto, più delimitato e più incisivo. Cinzia, i capelli sì. Diventano grigi. Per sì. chi decide di non tingersi ed evitare quindi, ad esempio, magari l'effetto, sì. Quell'effetto rossiccio sì. che hanno molte brune quando si tingono i capelli, sì. L'abbigliamento, i maglioni, le nostre giacche cambiano. Assolutamente. Perché nella tripletta abbiamo detto che i colori, insieme alla carnagione e agli occhi, dicono la loro. Sì, è molto importante rispettare sempre la pelle. Come dicevi tu giustamente, c'è una grande tentazione anche in Italia rispetto al rame e al mogano. Per esempio, se si è Audrey Hepburn, proprio cromaticamente... Se Audrey è come noi. Se Audrey era come noi. Il problema con le sfumature calde, ramate, che proprio tirano fuori perversamente la sfumatura giallastra dalla carnagione olivastra. Quindi meglio astenersi, meglio puntare sul cioccolato, sulle sfumature fredde. Chi decide di puntare sul grigio, e spesso le tipologie Audrey stanno benissimo con i capelli sale e pepe, pensate a George Clooney proprio come riferimento maschile, a questo punto anche i colori... Beh, lui starebbe bene anche calvo, eh? Ah, guarda, anche con un sacchetto della spazzatura. Penso. Comunque lì è molto importante scegliere colori freddi. È un peccato che la signora non ami più il viola, tra l'altro colore molto misterioso, trasgressivo. Lasciamo perdere il mio preferito, quindi occuperei la puntata. Esatto. Però in generale il viola, il lavanda, il verde smeraldo, anche il rosso valorizzano tantissimo i capelli sale e pepe. Occhio ai gioielli, in questo caso meglio argento, oro bianco e brillanti. Se volete passare un consiglio subliminale a mariti e fidanzati, ecco qui. Astenersi invece dall'oro giallo, perché fa molto maga dei tarocchi, la luna nera e quant'altro. Cioè chi è Audrey coloro giallo fa un po' effetto zingara, chi ha carnevale, visto che siamo a tema, va bene, ma insomma fuori da carnevale no. E poi collane e bijou. Collane e bijou, però sempre all'insegna dei metalli freddi, con il grigio se vogliamo valorizzare proprio queste sfumature fredde, platino. Allora, saluto Marta Cagnola, che è qua, è lontano da Cinzia Felicetti, di cui è grande amica, ma sì. Marta, vedi che abbiamo fatto la carambata. Tremore in un colpo solo. Dottor Widman, lei non ci ha detto di che colore si veste? No. Sì. Beh, mi vesto in maniera variata, prima di tutto. Posso dirle però due preferenze smaccate sì. che ho per i colori, anche per i colori che indosso. Sì. Uno è per il viola, che è un colore che io amo molto a dispetto delle maledizioni di cui dicevo poco fa, e che evidentemente posso usare a causa dei canoni della moda, posso usare in maniera anche stemperata e più occasionale. Sì. Una delle soluzioni che abbiamo noi maschi per usare i colori è quello delle cravatte oppure sì. degli accessori, però in climi estivi possono anche starci le camicie viola, in climi autunnali ci stanno i viola un po' più carichi. Senta, dottor Widman, lei ha letto il libro della Cinzia Felicetti, ci sono molti ascoltatori che si lamentano perché dicono ma per gli uomini niente, ma vede che il dottor Widman sta attento, aggiunge qualche colore qua e là, vero dottore? Sì, credo sia fondamentale, e credo che comunque si debba partire dal presupposto che noi non possiamo fare a meno di vivere di colori. Noi possiamo vestirci anche di grigio, ma dobbiamo sapere che anche il grigio è colore. Allora, io volevo chiedere a Marta che ci racconti un po' i colori di Sanremo. Che colore ha l'atmosfera di Sanremo, quella che si respira, anche un po' dietro le quinte? Allora, potrei dirti subito che intanto il colore è il grigio per il cielo plumbeo su di noi, ma solo in senso atmosferico, perché Sanremo sta andando bene, il colore dominante del palcoscenico e del logo della manifestazione è il rosso, la prima sera anche Antonella Clerici era vestita di rosso rubino, e poi c'è il blu, perché nel blu, dipinto di blu, è proprio il simbolo di Sanremo, blu come le scarpe favolose di Malika Yan, che mi è passata davanti proprio in questo istante, ma veramente imperdibili. Io invece oggi sono vestita di nero giornalista, che è la tinta proprio più classica per chi fa questo mestiere, perché non si sbaglia mai. Sì, un po' schiscia, come si dice, sì. No? Vado un po' schiscia, vado vestita di nero e sono sempre a posto. E schiscia come posso essere schiscia io, tu sì. Che mi conosci, diciamo così. Sì, Senti, e gli uomini? Ma gli uomini, che dire, allora, in sala stampa, pare che gli inviati non abbiano voglia di scegliersi l'abbigliamento e che tirino fuori le cose alla rinfusa dalla valigia. Anche per quanto riguarda questi cantanti, ma non lo so, sembra che le donne siano molto più attenti ai colori. L'unico che mi ha colpito e che veramente si sta dando da fare è Valerio Scanu, che ha delle bellissime sciarpe coloratissime, e poi Marco Mengoni, un altro talento dei talent show, che ha deciso il primo giorno di vestirsi di bianco e nero raccontare le sue due anime. Sì, una scelta coraggiosa, ardita, Cinzia? Beh, molto optical, quindi sì. Direi anche molto, molto chic. Il contrasto di colori netti rispecchia personalità forti come quella di Marco. Occhio però dal punto di vista moda a questo abbinamento. Se indossato una camicia bianca, per esempio, con una gonna anche insomma, a tubo nera, la freccia segnaletica andrà proprio sul punto vita, cioè sul punto di incontro di bianco e nero. Quindi se non volete proprio mettere una freccia lì, se non in zona fianchi, un mitino da vespa, meglio astenersi. Marta, io so che anche gli ascolti, oltre che i colori, sono andati bene, ma di questi ne parlerai nel nostro GR delle 12. Quindi Marta, appuntamento a dopo. A tra pochissimo. Dottor Widman, io la saluto, la ringrazio, è stato davvero piacevole. Grazie a lei. Così saltellare sulla tavolozza dei colori insieme a lei. Buona giornata. Buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori. Una giornata colorata, mi auguro. Allora, io vi ricordo che il nostro appuntamento torna domani, ma se, come avete dimostrato dai vostri messaggi e dalle tante telefonate, siete interessati ad aggiungere il colore giusto al vostro abbigliamento, potete fare un saltino su i tuoi colori.it e troverete tantissimi suggerimenti preziosi e colorati. Cinzia, a prestissimo. Grazie. Vado bene? Benissimo, molto Audrey, direi. Molto Audrey. E dai, che mi prendo anche questa. Allora, domani torna Nicoletta Carbone, che ha un pezzettino di Audrey, giusto? Dentro di sé. Vi aspetto. Buona giornata.